Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza Impariamo a Volerci Bene, questo Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e vi ho portato nel meraviglioso mondo dei fiori e nel mondo dei cristalli. Nelle scorse due puntate invece abbiamo affrontato il mondo dei fiori di Bach per gli animali e dei fiori australiani per gli animali. In questa puntata di oggi vorrei parlarvi sempre di trattamenti per gli animali e in questo caso vi vorrei porre l'attenzione su il confronto fra il Telecom Touch, più noto come T-Touch, e il Reiki. Che cos'è il metodo Telecom T-Touch? È nato una quarantina di anni fa negli Stati Uniti per il lavoro con i cavalli, doma e addestramento. È stato in seguito applicato con successo anche sui cani, gatti e molti altri animali, apportando ovviamente le modifiche necessarie. Prende il nome dalla persona che l'ha inventato, Linda Tellington Jones. In che cosa consiste il metodo Tellington Touch, T-Touch? È un metodo di insegnamento gentile e positivo che coniuga lavoro sul corpo ed esercizi a terra per migliorare la coordinazione e l'equilibrio. Un buon equilibrio fisico influenza positivamente anche lo stato mentale ed emozionale, aiuta gli animali ad essere più calmi e aumenta la capacità di concentrazione e apprendimento, aiuta a sviluppare autocontrollo e fiducia in se stessi. La mancanza di questi requisiti è alla radice di molti comportamenti indesiderati e interferisce con la capacità di apprendimento. Il T-Touch è inoltre molto utile nel migliorare la comunicazione e l'intesa fra l'animale e la sua persona. Il T-Touch integra bene con altri metodi positivi di insegnamento. Non è necessario conoscere l'intera filosofia del metodo per applicarlo sul nostro animale. Imparare alcuni semplici tocchi può già fare la sua differenza. Il metodo Tellington T-Touch consiste in T-Touches, ossia tocchi particolari che nascono dall'esperienza di Linda con il metodo Feldenkrais. Mediante il T-Touch tocco, praticato con movimenti circolari, particolari ed inconsueti, è possibile rimuovere l'imprinting, impronte mentali, profondi quali traumi, paure, dolore e disagi fisici. I T-Touches possono sembrare a prima vista dei massaggi, invece mediante questi T-Touches viene attivato anche il sistema nervoso e quindi fasce nervose inutilizzate. Lavoro a terra con ostacoli e diversi tipi di condotta. Con gli esercizi a terra gli animali vengono guidati in diverse posizioni attraverso gli ostacoli, incrementando la loro capacità di apprendimento, aiutando a sviluppare autocontrollo, concentrazione, fiducia, obbedienza, equilibrio e coordinazione. Gli animali acquisiscono una nuova consapevolezza di sé, imparano a pensare anziché ad agire per istinti, lotta, fuga e blocco. Che cos'è il Reiki invece? Reiki significa spirito e appunto la parola Rei. E chi significa energia? Alla lettera la parola Reiki si traduce come energia spirituale. Così in realtà tutte le cose sono composte di Reiki, poiché tutte le cose sono fatte di energia. Questa energia viaggia attraverso di noi agli esseri che hanno bisogno di guarigione. Spesso la percepiamo più forte nel palmo delle nostre mani, ma in realtà il Reiki scorre attraverso tutti i nostri centri. Reiki è ideale per gli animali perché è dolce e non invasivo. Non causa stress, disagio o dolore e produce risultati quasi immediati e potenti perché gli animali rispondono intuitivamente al potere del Reiki. Il Reiki è un metodo di guarigione meravigliosa, così come un complemento misura alla sicuro alla medicina occidentale, alla medicina cinese, all'omeopatia, essenze floreali e tutte le altre forme di guarigione. Per esempio, il Reiki può ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, sostengono un trattamento di acupuntura e aumentare gli effetti delle essenze floreali. Il Reiki è anche un modo potente ma delicato per offrire comfort, sollievo dal dolore, paura e ansia e per facilitare la transizione alla morte. Quando gli animali sono stressati, malati o feriti, si potrebbe dire che energicamente sono sbilanciati, offrendo una connessione energetica o un ponte di equilibrio, il professionista dona un sistema di supporto che l'animale può utilizzare per rilassarsi e sviluppare un processo di autoguarigione, riequilibrando ogni suo aspetto. Il professionista Reiki degli animali può, per mantenere la salute e il benessere sul piano fisico, mentale ed emozionale, indurre il rilassamento profondo, alleviare lo stress e l'ansia, accelerare l'evasione degli animali malati o feriti o animali in recupero da un intervento chirurgico, contribuire a ridurre il dolore e l'infiammazione, contribuire a ridurre i problemi di comportamento e aggressività, aiutare gli animali maltrattati a guarire da traumi fisici e mentali del passato. Il Reiki è un valido complemento alle terapie tradizionali e alternative, ridurre gli effetti collaterali di altri trattamenti medici, sostenere e accompagnare il processo di morte. Perché il Reiki è una terapia olistica ideale per gli animali? È dolce e non invasiva, indolore senza stress. L'energia arriva nella parte dell'animale dove ne ha più bisogno, anche se sconosciuta al professionista Reiki. Può essere somministrato con il contatto delle mani o a distanza e adattato. Non nuoce mai al destinatario né al praticante. Gli animali possono controllare la loro partecipazione al trattamento, diventando così protagonisti nel loro processo di guarigione. Per oggi è tutto, io vi ringrazio e nella prossima puntata invece entrerò più nel dettaglio su come trattare il Reiki per gli animali, ma prima di lasciarvi, come sempre, vi do i nostri contatti. Il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it, i nostri numeri di telefono: Francesca 340 2345340, Franco 329 8989 669, Elisa 339 38 60123. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook Energicamente, con consapevolezza per il benessere. E come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, ringraziando Radio Record e Davide Giorgio per la piacevole collaborazione.